Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi c'è Gianluca Codognato al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. La vicenda che raccontiamo oggi è un po' strana, ma sono quelle cose che evidentemente a volte capitano, no? Come capita certe volte che arrivino dei bollettini prestampati di qualche associazione e categoria che ci sembrano delle imposte e li andiamo a pagare perché siamo sopra pensiero. Questa volta è la cosa un po' diversa. Un signore doveva pagare i bollettini alla Veritas, ma per qualche motivo, per qualche numero sbagliato forse nel conto corrente, i soldi alla Veritas pare non siano mai arrivati e quindi la Veritas ha detto: noi sospendiamo il servizio. È così? Sì Francesco, è una storia molto, molto particolare, dai contorni assolutamente kafkiani, perché oggettivamente allo stato delle cose non siamo riusciti ad arrivare a capo della faccenda, perché sono in corso le necessarie verifiche. Siamo orgogliosi in realtà però del fatto di essere riusciti a sospendere la minaccia di sospensione del servizio idrico da parte di Veritas. Quindi insomma, diciamo, da questo punto di vista noi la nostra prima parte l'abbiamo fatta, ora attendiamo le verifiche. E niente Francesco, è una storia molto particolare, perché in realtà comincia addirittura già nel 2014, quando a seguito di una bolletta pagata da questa famiglia, che è una famiglia appunto veneziana, una bolletta tra parentesi di 61 euro, bolletta pagata e anche con testimoniato dal bollettino, in parole povere questa famiglia riceve invece un sollecito di pagamento con minaccia di distacco del servizio idrico. Cosa ha fatto il protagonista della storia? Ha detto: va bene, per 61 euro ripago, perché non voglio trovarmi senza servizio idrico. Purtroppo la storia si è ripetuta. Si è ripetuta con un'altra bolletta da 130,94 euro e con un'altra ancora da 237,64 euro. Bollette ancora anche queste un po' datate, per le quali Veritas contesta il fatto appunto che non siano arrivate a destinazione, e quindi esattamente la scorsa settimana hanno minacciato la famiglia di staccare l'acqua. Cosa succede però? Queste persone hanno i bollettini che testimoniano che questo pagamento è stato effettuato, tant'è che Veritas conferma che effettivamente un pagamento è stato effettuato, però dice: quei soldi non sono finiti nel nostro conto corrente. Dove sono finiti? Questo è il mistero che cerchiamo di risolvere, e cercheremo di risolvere al più presto, perché diciamo, Francesco, che e grazie anche un po' alla nostra capacità comunicativa, in questo momento si sono messi in moto tutti, cioè Veritas, le Poste, perché abbiamo chiesto chiaramente spiegazione alle Poste, e anche l'Enel. Perché l'Enel? Perché da una prima ricerca effettuata appunto dalla famiglia che ha ricevuto l'ingiunzione di pagamento, pare che il conto corrente, almeno segnalato da Veritas, potrebbe essere quello di Enel. Ecco, questa è un po' una storia allucinante, perché ripeto, in realtà il bollettino è prestampato. Il bollettino prestampato proprio da Veritas probabilmente, quindi c'è un errore grossolano. Allora, è prestampato da Veritas, e il timbro della posta riporta correttamente il conto corrente di Veritas. Stiamo verificando, diciamo, nella parte sinistra del bollettino c'è un altro timbro con un conto corrente che non risulta essere quello di Veritas, e per il quale stiamo facendo appunto delle ricerche, delle verifiche. Perché qual è il pericolo? Il pericolo è che bisognerà che la famiglia debba pagare un'altra volta due bollette di un importo anche abbastanza elevato a Veritas, che Veritas dice: io non ho ricevuto niente, ma loro hanno pagato. Quindi capisci, Francesco, che la situazione è veramente assurda. E eventualmente andare a richiedere indietro i soldi da chi li ha ricevuti ingiustamente. Allora, molto correttamente, noi abbiamo un ottimo rapporto, un buon rapporto con Enel, abbiamo un buon referente che ci ha subito contattato e ci ha assicurato che se risultasse che i soldi sono arrivati a loro, assolutamente gli restituirebbero subito, chiaramente, ai diretti interessati, che a quel punto gli girerebbero a Veritas. Certo. Il problema è capire se realmente quei soldi poi siano arrivati o meno ad Enel, e queste verifiche le stiamo facendo. Ripeto, la fortuna è che almeno per questi giorni la famiglia in questione potrà contare sul servizio idrico. Speriamo di risolvere presto, in modo che insomma non ci siano altri disagi per questa povera famiglia che in realtà ha già pagato e anche bolletta abbastanza salate. Eh beh, va bene, allora sono cose che capitano e a questo serve anche l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ricordo il sito, facile, è www.associazionedifesaconsumatori.it, con numeri di telefono, contatti, tutto quello che vi può servire. Anche ci sono delle segnalazioni di casi particolari come quello che abbiamo appena raccontato, quindi è sempre interessante andare a sfogliare il vostro sito se qualcuno ha del tempo, no? Ci sono delle volte che uno dice ma oggi vado a farmi un giro in internet, secondo me una capatina nel sito dell'Associazione Difesa Consumatori va fatta ogni tanto, va bene? Può tornare molto utile. Grazie quindi a Gianluca Codognato, alla prossima. Grazie. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.